Radio 24 presenta Il riposo del guerriero con Stefano Gallarini. Da 10-9 minuti, buona domenica, da Stefano Gallarini comincia Il riposo del guerriero e non mandate almeno per ora i messaggi con scritto smart box, perché in effetti anche nel riposo del guerriero di oggi regaleremo una smart box, un cofanetto per... Vi svelerò che cosa dopo, ma non in questo momento, quindi attenzione a quando lo chiederò, allora a quel punto sì che potrete mandare il vostro messaggio con scritto smart box, ma non adesso. Sono tante le cose che si possono portare a casa grazie al riposo del guerriero, per esempio alle 11:30, come sempre, c'è il mistero in 24 minuti, la possibilità di vincere fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it. Bisogna risolvere il mistero ascoltando gli indizi musicali che vi proporrò, più indizi ascolterete più il premio si abbasserà. La risposta può essere, come al solito, una delle notizie della settimana oppure un personaggio o qualcosa di particolarmente conosciuto, e il primo indizio è la canzone di Barbra Streisand. People who need people. Eccolo qua il primo indizio per prenotarvi già da adesso, 800 24 00 24. Nella puntata di oggi, bisogna tornare bambini. Ammesso che si sia diventati grandi, perché c'è anche questo, può anche accadere che non si sia mai diventati. Comunque sia, ho letto recentemente un sondaggio fatto da Direct Line, che è la compagnia di assicurazione online, e che ha indetto un sondaggio chiedendo quali fossero i mezzi di trasporto legati al mondo dei bambini così più amati in qualche modo. Al primo posto c'è il tappeto volante di Aladdin, quindi la maggioranza di persone, il 29% di chi ha risposto, ha detto che vorrebbe andare in giro con il tappeto volante di Aladdin. In effetti, come situazione potrebbe essere interessante. Mi domando, per il freddo di questi giorni, come si possa fare, però comunque sia molto comodo. Poi arriva la 313, il paperino, sicuramente perché il personaggio è simpatico, ma anche perché la macchina è piccola e la si posteggia dappertutto. Tra l'altro la 313, malgrado tutti gli acciacchi che ha e le volte che così si ammacca un po', ritorna sempre nuova a ogni storia, di conseguenza forse anche questa dote. E al terzo posto invece la carrozza di Cenerentola, forse quello, semplicemente perché si sogna sempre la vita alla grande, che arriva però dopo molte fatiche, come Cenerentola insegna. Insomma, voi, dovendo tornare bambini, che cosa vorreste ritrovare? Che cosa forse avete perduto e vorreste riavere? Oppure che cosa sognate anche da adulti, perché no? I bambini sono i protagonisti di questa puntata. Il numero per i vostri sms 349-238-6666, e visto che parliamo di bambini, facciamo tutti oh. Quando i bambini fanno oh, c'è un topolino. Mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino. Se c'è una cosa che ora so, ma che mai più io rivedrò, è un lupo nero che dà un bacino a un agnellino. Il riposo del guerriero. Puntata dedicata ai bambini oggi, e quindi cominciamo subito con Massimo Bruno, che saluto. Ciao Massimo, buona domenica. Ciao Stefano, buona domenica, e buona domenica a tutti i radioascoltatori. Massimo è il direttore di Idea Kids, ricordo canale 601 e 602 di Sky, che è una televisione dedicata ovviamente al mondo dei bambini. Allora, la televisione così criticata come pessima insegnante, come babysitter, così davanti alla quale i bambini vengono lasciati, invece può essere anche uno strumento, ovviamente, quindi partiamo da lì. Tanti sono i programmi che vanno bene per i bambini, e quali l'età così che seguono più facilmente il vostro canale, Massimo? Ma il nostro canale segue i bambini che vanno ai 3-4 anni, che diciamo è l'età giusta per iniziare a guardare la televisione, fino ad arrivare ai 9-10 anni. Ovviamente sono diversi, sono maschi, sono femmine, sono più grandi, sono più piccoli, quindi anche i bambini televisivamente hanno tante esigenze diverse, però cerchiamo di conciliarle un po' tutte. Ecco, ogni quante, cioè scusami, ma la domanda è L'età come cambiano? Voglio dire, 4-5 anni, poi 6-7, poi 8-9, come si possono dividere per interessi? Guarda, una volta si chiamavano tutti bambini quando quando esistevano i programmi soltanto su Rai 1 oppure su Canale 5. Adesso ormai i canali televisivi tendono a coprire diverse aree di età. Diciamo che ormai le fasce fondamentali sono i bambini prescolari, cioè quelli che ancora non vanno a scuola, quindi 4-5 anni. Poi ci sono quelli che si chiamano in inglese i kids, che sono appunto quelli che vanno alle scuole elementari, però già dalle scuole medie sono nati questi nuovi bambini, chiamiamoli così, come che gli americani definiscono twin, cioè quelli che sono in between, nel mezzo tra l'infanzia e l'adolescenza, e sono i bambini che guardano i programmi più facilmente invece dei cartoni animati, ad esempio i telefilm. Tutto questo segue uno sviluppo cognitivo per le tre fasce d'età, perché ovviamente le esigenze del bambino cambiano man mano che si cresce, lo sappiamo tutti quelli che abbiamo figli o nipoti o amici con figli, insomma. Ecco, e proprio per questo bisogna anche saper scegliere. Allora, quindi volevo anche capire tu come scegli, nel senso che ovviamente ti arriveranno delle proposte di programmi, e quindi qual è il criterio per scegliere e selezionare una cosa piuttosto che un'altra? Guarda, noi intanto in Idea Kids abbiamo fatto una scelta, più che scegliere, produrre molte cose originali, nel senso che in Italia per esempio c'è un po' in generale nella televisione, ma soprattutto nella televisione per bambini si produce molto di meno prodotto locale, cioè cose che raccontano anche la realtà locale italiana ai bambini, perché è giusto e importante anche questo. Poi scegliamo ovviamente in base a una noi abbiamo uno staff molto dedicato, molto competente, che sta molto attento al messaggio che viene dato ai bambini. Quindi noi particolarmente su The Kids lavoriamo su un messaggio un po' più educational, diciamo così, però non in maniera noiosa, non vogliamo insegnare in maniera pedante e noiosa, ma sempre facendo divertire i bambini, perché quello per ogni bambino, cioè il divertimento è lo strumento fondamentale. Quindi diciamo, questo è il nostro posizionamento editoriale, qualcosa che insegni e che soprattutto non scavalchi i genitori, ma aiuti a guardare la televisione e fare anche cose assieme ai genitori, ci si può divertire anche insieme, grandi e piccoli. Hai detto anche tu, tutti i grandi poi hanno una parte di bambino in sé, no? Certo, infatti volevo poi arrivare proprio a questo, quali sono per esempio i tipi, i generi, i programmi o quali dei vostri programmi che interessano anche un pubblico che bambino non è, ma che comunque ha anche il cuore, no? Legato all'infanzia, perché un po' bambini lo siamo tutti. Guarda, noi diciamo che siamo il canale del fare insieme, infatti noi l'abbiamo chiamato I Do Tainment, dove do appunto in inglese significa fare. Abbiamo dei programmi come Freestyle, che è un programma in cui i bambini sognano di avere una cameretta nuova, perché tu sai benissimo che crescendo tu hai la camera tutta con i poster, con i tuoi personaggi, però poi cambiano tutte le tue esigenze. Allora noi andiamo lì con Giovanni Mucciaccio, che è il nostro conduttore, e insieme gli facciamo una cameretta. Ovviamente tutta la famiglia che si diverte attorno a questo elemento. Oppure Missione Cuccioli, che è il programma dove adottiamo un cane della Lega, appunto del canile, e insieme questo cane viene introdotto in famiglia da Simone Della Valle, il nostro dog trainer. E poi ci sono i grandi classici, se ti dico il nome appunto di una protagonista di sempre, la ricorderai anche tu, che è Pippi Calzelunghe. Ecco, e lì volevo arrivare, come fa Pippi Calzelunghe a essere ancora viva, nel senso, viva in televisione? È viva, non c'è stato un anno fa l'attrice, quindi ti giuro che è viva. Basta andare in Svezia, tra l'altro, per c'è anche il museo dedicato al personaggio. È bellissimo. Ecco, come fa a piacere ancora? Perché poi sono gli stessi telefilm che si vedevano negli anni 70, credo, oppure sono nuovi, sono stati rifatti? Come funziona? Guarda, come tutti i genitori sanno, sì, sono gli stessi che significa che ovviamente è una cosa molto bella, perché vuol dire che è un prodotto che ha dei valori sani, diciamo così, a fondamento, per cui è un prodotto che parla ai bambini e per bambini come sono, non come tanti programmi di oggi che descrivono i bambini, che fanno finta di parlare ai bambini e poi in realtà parlano agli adulti e mettono in mostra appunto dei bambini. Poi Pippi è il bambino che c'è in noi, nel senso che veramente è un po' irriverente, è il bambino che sogna di avere una casa tutta per sé, è il bambino che ha un cavallo che tiene a casa, è il bambino che la scimmietta, quindi piace ai bambini di sempre, perché poi i bambini cambiano le tecnologie, cambiano gli scenari, ma poi sono sempre bambini, quindi voglio dire, le esigenze sono quelle, cioè il loro sviluppo è quello. E piace anche agli adulti, perché ti confesso, ogni volta che vado in giro sono più gli adulti che mi fanno domande su Pippi che non i bambini. Forse perché ricordano quando svedevano le vecchie puntate, però mi domando, il modo di girare, il modo anche di raccontare le storie, che comunque è un po' più lento, no, rispetto ai tempi che abbiamo oggi, eppure malgrado questo riesce ancora a funzionare e quindi a interessare comunque il pubblico, perché è interessante, il linguaggio è proprio diverso, quello di Pippi Calzelunghe rispetto ai programmi che vediamo oggi, semplicemente. Sì, però Pippis è proprio, è un po' come i Barba Papà, un altro prodotto che siamo riusciti a riportare in Italia quando io lavoravo a Nickelodeon dopo tanti anni, è degli anni 70 che è Barba Papà. Alla fine la semplicità premia, nel senso che non è detto che per forza bisogna avere un ritmo molto convulso, soprattutto nei confronti dei bambini, in termini di, come hai detto tu, di regia. Sì. Oppure se i personaggi sono forti, se le riprese comunque sono descrittive, semplici e raccontano una storia, quello vince su tutto. Secondo me questa cosa vale un po' per tutti i target, dove si creano dei classici, ma in particolare per i bambini si crea un'immedesimazione che ti permette anche di vedere se la grana, cioè un bambino non guarda se la grana di un prodotto è un po' rovinata, diciamo così, se c'è qualche immagine un po' scolorita, ma si immedesima talmente tanto che questo vince su tutto. Poi purtroppo sono sempre solite 26 puntate, quindi lo dico a tutti i genitori che continuano a scriverci: vi prego, mettete le puntate nuove di Pippi Calzelunga, ma non ce ne sono di puntate nuove. Ecco, quindi, i genitori, io vorrei sapere se vi scrivo, se trovano che ci sia sempre qualcosa di sbagliato, se si lamentano per qualcosa, non lo so, perché è difficile dirigere una rete dedicata ai bambini, proprio perché si corre il rischio di essere criticati magari per una scelta o per una parola usata o chissà per cos'altro. Guarda, noi siamo particolarmente attenti e cerchiamo anche, perché poi ho un team con un'esperienza abbastanza, come dicevo, consolidata, perché ovviamente è un pubblico diverso, cioè fare televisione per bambini non è fare solo intrattenimento così come si può fare per gli adulti, ci vuole una particolare attenzione. Ovviamente i genitori, noi siamo sempre in contatto, tra l'altro Di Agostini, come sai, è un editore che ha sempre tenuto assieme la famiglia. Sì. E questo ci aiuta anche il fatto che abbiamo delle radici, diciamo così, come editore di carta stampata. Di Agostini entra nelle scuole di tutti i bambini, di tutti gli italiani. Quindi noi di solito abbiamo un bellissimo colloquio con i genitori e cerchiamo di incrementare anche andandoli a incontrare, facciamo tante attività dal vivo con i genitori. Però è ovvio, può succedere sempre che un genitore dice: guarda, non mi è piaciuto che hai usato, è successo una puntata, hai usato un libro, un vecchio libro, lo hai trasformato in un portaoggetti, perché il messaggio è un messaggio sbagliato, perché tu hai trasformato un libro in un portaoggetti. E lì ovviamente dici sì, da un certo punto di vista hai ragione, però era un vecchio vocabolario che certo, non si serviva. Esatto, ci sono anche libri che è giusto che si trasformino, voglio dire. Perché un vecchio vocabolario che non serviva. Però dico, il messaggio sempre porta il rischio con sé, come tu sai, lavorando appunto in radio. Non è certo facile. E l'ultima domanda che ti faccio, Massimo, è questo: ma perché piacciono i Teletubbies? Scusa, non lo so, io però li ho presi. Per no, quello te lo chiedo. No, i Teletubbies sono un progetto molto interessante. Lo so, Perché vanno a parlare dei bambini talmente piccoli, quelli che dicevamo prima, sotto i 3 anni, però dando anche dei messaggi sulla scoperta dei colori, delle emozioni, della musica. E devo dire che è un altro grandissimo classico, però un classico che divide, confermo. Però guarda, io sai che darei veramente qualcosa, tutto, per tornare bambino in età assolutamente prescolare, perché i Teletubbies sono quei 4 personaggi con l'antenna giallo, blu, rosso e verde, se non mi sbaglio, che fanno ma c'è sole, ciao, cioè non dicono quasi niente, no, fondamentalmente, ma solo perché secondo me bisogna avere quell'età per riuscirli ad apprezzare, e hanno un grande successo, cioè piacciono. La BBC ne ha prodotto tantissime stagioni e vanno ancora avanti, sono veramente, come numero di puntate penso che sia il programma che ha più puntate per bambini. Complimenti a chi ha avuto l'idea di costruirle, insomma, esatto. Perché è stato un successo. A me forse se l'avessero proposta avrei guardato in faccia e detto no, prendendo una cantonata, voglio però dire, sai, non è neanche facile. Nel mondo dei bambini, nella televisione dei bambini, la fantasia la fa da sovrana. Chi avrebbe chiesto, cioè voglio dire, Pippi Calzelunghi, ho conosciuto l'attrice, quando mi ha detto, guarda, quando ci hanno proposto di fare questo progetto, tutti hanno detto, televisione, hanno detto, sono matti, ma cos'è? E poi alla fine è diventato quello che è, i Teletubbies è uguale. È vero, è un grande successo, a volte è inspiegabile per i Teletubbies, ma ripeto, bisogna avere quell'età e capire, e ormai noi abbiamo troppe sovrastrutture per riuscire a ritornare così tanto bambini, assolutamente. Massimo, se tu dovessi tornare bambino per un attimo, cos'è che vorresti ritrovare? Forse l'iPad, nel senso che i bambini di oggi sono molto più fortunati perché sono molto più intuitivi, quindi io non sono per una televisione nostalgica o per un'infanzia nostalgica, ogni bambino vive la sua epoca, l'importante è accompagnarlo bene nella crescita. Oggi i bambini sono molto più svegli, più intuitivi, eccetera, eccetera, il lavoro che deve fare la televisione e anche e soprattutto i genitori è quello di tenerli per mano e farli scoprire questo mondo. Io ho avuto una bellissima infanzia e cerco di raccontare anche attraverso il mio lavoro ai bambini che è bello crescere, che è bello cambiare, che è bello incontrare la vita ogni giorno, anche con racconto televisivo, che è una piccola parte, ma aiuta. Ma insomma, c'è anche quella, sicuramente. Se fatta poi in un certo modo, sicuramente è così. Grazie Massimo Bruno, buon lavoro, grazie, buona domenica, ciao. Il riposo del guerriero. Alle 10.30 nel riposo del guerriero stiamo tornando bambini in qualche modo. C'è un bambino in ognuno di noi sicuramente, e tant'è vero che anche da adulti Topolino si legge. Valentina De Poli, ciao, buona domenica. Buongiorno, ciao a tutti, ciao Stefano. Perché Topolino si legge sempre a qualunque età, da piccoli fino a sempre? Non c'è un momento in cui non lo si legga, diciamo la verità. Insomma, un po' è lo stesso effetto pipi calzelumi, sì. Insomma, le cose che ci appassionano quando siamo piccoli, difficile farle uscire dalla nostra testa e dal nostro cuore, per cui non vediamo l'ora di diventare adulti, di fare dei bambini per cercare di fargli ripetere le stesse esperienze belle che abbiamo vissute. Ecco, io vorrei chiedere, Valentina mi ha dato uno spunto, voglio chiedere agli ascoltatori con un sms al 349-238-6666 cosa sono le cose che voi fate come genitori prendendo come scusa il fatto che le fate per i vostri figli, in realtà le state facendo per voi, no? Perché ad esempio il parco dei divertimenti, no? Uno non ha magari coraggio di dire vado al parco divertimenti a 50 anni e allora sfrutta, diciamo così, i figli, i nipoti per andarci, ma in realtà vuole andarci lui, no? Quindi vorrei capire quali sono quelle cose che volete fare da adulti e che come scusa trovate i bambini o i figli per poterle fare, perché secondo me sono tante. 349-238-6666. Detto questo, Valentina, appunto, ci dicevamo che un po' si trova la scusa, ma anche no. Io dire, io Topolino a volte lo compro anche senza nessuna scusa, lo compro semplicemente perché ci voglio leggerlo. Ecco. No, è vero, è verissimo questa cosa, tanto che posso dire che noi lavoriamo tutte le settimane tenendo ben presenti davanti a noi chi sono i nostri lettori, pensando ai bambini, quindi maschi e femmine che vanno dagli 8 ai 12 anni, ma poi scopriamo, andando a consultare le ricerche, che in realtà i 2/3 dei nostri lettori sono adulti e quindi la proporzione proprio, cioè non c'è paragone. No, 2/3, scusami. Io quando scrivo il mio editoriale tutte le settimane, sì, lo scrivo rivolgendomi ai bambini, ai ragazzi, eppure l'adulto non si sente escluso, anzi, evidentemente c'è proprio un'alchimia, una magia che è quella che vuole ritrovare l'adulto proprio tra le pagine del fumetto. Ecco Valentina, ma 2/3 veramente sono tantissimi, cioè dovrebbe essere inversa la proporzione, quindi questo fa pensare. Anche noi da tantissimi tempo, devo dire, però anche prima ascoltando l'intervento di Massimo, che sì, alla fine comunque l'adulto ha, almeno fino a una certa età del ragazzino, comunque un ruolo importantissimo, perché i primi libri, le prime scelte anche di ciò che, insomma, la proposta anche televisiva, non su quella fumetti, passa sempre attraverso l'adulto, per cui probabilmente, ma non come una scusa, ci sono delle cose che vengono proposte dall'adulto, ma poi sono quasi innaturali, vengono fatte insieme, per cui io mi immagino Topolino entrare nelle case per il bambino, ma poi è il classico oggetto che se in famiglia sei in sei, prima o poi capita nelle mani di tutte e sei le persone, passa, lo sfogliano, per cui è per fortuna che esiste questa cosa. Devo dire che c'è un'età in cui secondo me veniamo un po' abbandonati, ma poi è bello essere ritrovati, che è l'età, insomma, dell'adolescenza. Vabbè, quella è la contestazione su tutto, ma questo è normale, non va bene niente, no? Ma questo infatti, è logico. Infatti, è proprio quello il modo, però è bello farsi ritrovare dopo. Sì, cioè quando ritrovi il senno, no? Dovresti, insomma, ritrovare, a un certo punto si ritrova il senno, dice, vabbè. Però quella è l'età giusta dove ogni cosa va discussa, altrimenti non si cresce. Senti Valentina, secondo te la forza è anche nel carattere dei personaggi che davvero ci rappresentano? Insomma, Disney quando li creò e tutto il suo staff pensava a se stesso e a quelli che aveva intorno, per cui fondamentalmente ogni carattere ci appartiene. Sicuramente, anzi io lo dico sempre, faccio un lavoro privilegiato, perché è vero, mi occupo di fumetti, è un modo di comunicare che ho sempre amato fin da quando ero piccolina, leggevo già le storie a fumetti, non solo quelle Disney, però accidenti, avere la possibilità di far recitare, di recitare insieme al personaggio Disney, quindi il mondo dei paperi, il mondo dei topi, è un privilegio enorme, proprio perché al di là dell'espressività che è intrinseca in tutti i personaggi, non solamente di questi che definiamo gli standard character, che sono i personaggi classicissimi, ma anche tutti i personaggi Disney portano con sé un'espressività che insomma ti ipnotizza, rimani agganciato ai loro occhi, però anche la, il carattere, anche la personalità, e dentro ogni personaggio ognuno di noi a qualsiasi età ritrova qualche cosa di sé, e questo è importantissimo. È un po' la chiave della forza dei Simpson, che riescono a fare decine di stagioni senza mai cedere, no, il passo. Sì, anche perché... se credo che ci sia una differenza per cui magari è difficile trovare qualcuno che dichiara di sentirsi Homer Simpson, mentre... ma lo siamo tutti un po', è come sì, siamo tu, come è più siamo facile dire mi sento un po' Paperino. È vero. E devo combattere contro zio Paperone che mi vesta, questo sì. Homer Simpson non ancora, se mai qualche amico per... dice mi sembri Homer Simpson, ma non è sempre per fargli un complimento. Comunque sì, la chiave è proprio quella, cioè quella di ritrovare dentro questi personaggi un pezzettino di noi, della nostra storia, della nostra vita quotidiana, naturalmente senza abbandonare invece tutta la parte di sogno, che è molto importante, perché senza quella parte che lascia al lettore, in questo caso, ma fin da quando è piccolino, l'idea di evasione, di trovare qualcosa che non c'è, non funzionerebbe, almeno questo senz'altro sulla narrazione Disney, cioè la parte di fantasia ci deve essere, mentre i Simpson suppliscono a questa cosa, che poi comunque c'è sempre la parte fantastica, con anche, l'ironia sicuramente. Ecco, no? Esatto, anche perché parliamo comunque di due livelli diversi. Topolino, come dicevi tu, voi quando lo scrivete vi rivolgete comunque a un pubblico di ragazzi, sì. Invece i Simpson no, perché sono disegni e sono animazioni per adulti, quindi certo. Sono pensate comunque in un modo differente, quindi questo è vero. Cioè, Valentina, l'italiano è sempre stato caposaldo proprio della scrittura dei fumetti, e continua a essere, i congiuntivi sono giusti, vengono utilizzati. Quanta attenzione c'è da questo punto di vista? Tantissima, anzi io mi sento una responsabilità enorme, tra l'altro proprio di questi tempi per cui il Natale, gli anticipi natalizi, c'è sempre meno attenzione, il trasloco, tutto, ho sempre l'ansia perché qualche errorino sfugge sempre, sì. Infatti anche nel numero che ne dico la ne approfitto per chiedere scusa a tutti i lettori, ma farò un'errata corrige, non gravissimo, ma c'è, l'ho scoperto ieri, purtroppo l'occhio sfugge, però no, l'importanza dell'italiano, l'importanza anche di non aver paura di proporre un lessico sofisticato, perché questa è sempre stata un po' la cifra di Topolino, cioè non aver paura. Io ho ancora il ricordo di parole di cui non capivo il significato, sì, da piccola, che mi sono ritornate dopo, e quando ho scoperto il vero significato ho detto ecco cosa voleva dire, e ti rimangono addirittura anche entrando nel vocabolario, per cui è sempre importantissimo, tant'è che penso addirittura prossimamente di fare un bel lavoro proprio insieme ai lettori sulle parole del fumetto, perché vedo che è uno di quegli argomenti che funzionano, tant'è che mi hai fatto una domanda proprio in questo senso, e sono contenta che ci sia sempre attenzione e che Topolino continui a darle. Insomma. Una parte del mio programma è dedicata proprio alle parole con nostra Francesca Dragotto, che tra l'altro probabilmente oggi non sentiremo, al quale facciamo tantissimi auguri perché non si è sentita bene stanotte e quindi forse non la sentiremo purtroppo, però vi leggerò cosa aveva preparato per noi, raccontando e parlando proprio di infanzia, e quindi Valentina, figurati, a me Topolino ha sempre molto colpito per quello, e l'ho apprezzato molto proprio da questo punto di vista. E volevo chiederti ancora, a parte i fumetti, Topolino è fatto anche di altri racconti o comunque di iniziative, quali sono quelle che funzionano di più, quelli che coinvolgono direttamente i lettori oppure altro? Certo, allora è proprio come ti dicevo prima, questi percorsi, il prossimo sarà sulle parole, ne abbiamo affrontati molti, almeno un paio di percorsi all'anno, e sono diciamo delle proposte di concorso, chiamiamoli così, con un nome che riconoscono tutti, in cui però la particolarità sta nel chiedere ai lettori di fare qualche cosa. Lo scorso anno, tra l'altro proprio con Federico Taddia che ci ha aiutato, abbiamo portato avanti un percorso lungo settimane sul 150° dell'Unità d'Italia, chiedendo anche ai lettori di mandarci il loro pensiero, per cui queste sono le iniziative che vengono proposte dalla parte redazionale e ai quali i lettori rispondono di più, cioè sono dei lettori molto reattivi, per cui abbiamo ricevuto migliaia di risposte in cui i ragazzi ci raccontavano in questo caso e la loro Unità d'Italia, ma abbiamo affrontato anche altri concorsi, ce n'è uno in atto adesso sull'arte, un percorso sull'arte parte in cui chiediamo invece ai nostri lettori di esprimersi attraverso le tecniche artistiche del disegno, ma non solo, e in tutto questo loro trovano la proposta nella parte redazionale, quindi parte giornalistica scritta, e ma anche in storie a fumetti dedicate proprio alla storia dell'arte. Quindi ancora una volta cerchiamo di unire sempre di comunicare attraverso tutti gli strumenti che il mezzo ci mette a disposizione, per cui attraverso il fumetto e l'ironia cerchi di avvicinare i lettori, in questo caso alla storia dell'arte, un approfondimento nella parte redazionale, scusate, in cui si parla di arte e dal punto di vista più didattico, una proposta di interattività in cui mettere alla prova i nostri lettori, che rispondono sempre in maniera sorprendente, tant'è che uno dei miei momenti preferiti è quando arriva la posta dalla casella postale e iniziamo ad aprire, no, queste buste, perché a volte proprio rimaniamo ancora noi stupiti. Certo, perché il bambino che comunque c'è in voi ritorna a essere evidente. È inutile dire che molto spesso, oltre a quei lavori dei bambini, troviamo lavori di adulti. È lì che volevamo arrivare, infatti è così, ma va bene, perché comunque sicuramente sono anche stati fatti insieme, per cui è un bel modo per stare insieme, genitori e figli, visto che questo è anche il periodo giusto per farlo finalmente. Valentina De Poli, io ti ringrazio molto per la disponibilità e fai complimenti a tutto il tuo staff. Grazie mille, io ringrazio voi e auguri a tutti. Grazie, ciao Valentina. Valentina De Poli, la direttrice di Topolino. E io intanto volevo leggere qualcuno dei vostri messaggi, mi piace molto quello di Gianluca, che ha 49 anni e scrive: ritornerei bambino per rivedere il primo allunaggio, perché allora dormivo, in effetti, quindi sarei assolutamente perso. E rivedere i filmati non è certo come insomma essere stati lì la prima volta. Marcello non mi scrive l'età, ma scrive semplicemente: io ancora compro i Lego, per cui i vecchi Lego, poi c'era anche il Meccano, quante cose, e di conseguenza sono tante le cose che vorremmo ritrovare o che ancora abbiamo di quando eravamo bambini, a volte usiamo loro per recuperarle. Ludovica Cima, ciao, buona domenica. Ciao a tutti, buona domenica a voi. Allora, Ludovica è autrice di un libro, si intitola 7+7+7, tre storie lunghe, una settimana, ma soprattutto è responsabile dell'area ragazzi del gruppo San Paolo. Quindi Ludovica, anche con te parliamo di scrittura, fondamentalmente di lettura, sì. Ovvio. E quali sono gli ingredienti che voi usate, che tu scegli, che tu cerchi e che tu stessa, insomma, impegni nel tuo lavoro? Allora, ho visto, intanto volevo dire che sei partito da un ospite che ha la televisione, sei passato dalla Disney, che è una portaerei di contenuti per i bambini, e noi siamo scrittori per bambini che abbiamo delle armi, un po' come la radio, più piccole, no? Perché abbiamo solo delle parole che da vedere sono delle specie di segni neri che non danno nessuna emozione. E voi anche avete le parole, forse un po' la musica, la radio per comunicare, quindi noi abbiamo la sfida di prendere l'attenzione di questi bambini che hanno un sacco di altre cose da fare nel loro tempo libero ed emozionarli con questo mezzo, il mezzo delle parole. E l'ingrediente più importante è proprio l'emozione, una storia che non emoziona non prende, non calamita il bambino e non lo aiuta a leggere fino in fondo. Ludovica, quanto, guarda, non sai, io personalmente, perché secondo me se non c'è quella non c'è proprio niente, sì. In generale è proprio questo, vabbè, è un lungo così. Discorso ogni tanto dici: pensate un po', bambini, nella mia cassetta degli attrezzi ci sono le parole, io mi devo inventare qualcosa di veramente bello per catturarvi, altrimenti voi chiudete il libro e lo lasciate lì e andate a fare un'altra cosa. Ecco, e poi spesso non torna più, e quello è il problema. Se non catturi con un libro quando con i ragazzini, quando sono piccoli, non riesci poi a catturarli quando sono adulti, che trovano il libro qualcosa di, tra virgolette, noioso, no? Invece sì. È proprio lì che bisogna lavorare. Resta con Ludovica, perché cominceremo proprio da qui tra poco, dopo gli aggiornamenti sul traffico. Il riposo del guerriero. Lodovica, scusa, prima di riprendere la nostra conversazione, io stavo chiedendo, come hai sentito, agli ascoltatori quali fossero le cose che fanno grazie, con la scusa, diciamo così, dei figli o dei nipoti, no? Allora c'è chi scrive il circo, il trenino, il Lego, però c'è un messaggio di Roberto che è curioso, dice: a quasi 50 anni mia moglie abbiamo la piacevole abitudine di portare i figli a Gardaland, ma in realtà siamo noi che lo proponiamo per andarci noi e i nostri figli ci accompagnano, quello è sé. Quindi l'inversione delle cose. Allora, Lodovica, dicevamo appunto la scrittura, riuscire a fare in modo di creare emozioni per portare i bambini a leggere. Esatto, questo è il primo ingrediente. Poi, una volta che si entra nella storia, devono succedere tante cose, ci deve essere un buon ritmo, perché come dicevate voi, anche per quanto riguarda i telefilm, che i telefilm degli anni 70 sono molto più lenti di quelli a cui siamo abituati adesso, quindi ci vuole un buon ritmo, perché anche il linguaggio scritto, il linguaggio narrativo è cambiato dagli anni 70 ad oggi. E poi il personaggio è importantissimo, ci sono grandi personaggi che vengono seguiti dal pubblico. Ecco, quali sono, che caratteristiche devono avere questi personaggi? Devono incuriosire, che cosa devono avere per essere interessanti per un bambino? Ma devono rimandare a un mondo fantastico che sia immediatamente comprensibile, quindi per esempio il mondo dei topi è un mondo parallelo che però è molto comprensibile per un bambino. Devono avere caratteristiche tipiche dei bambini, in modo che i bambini si possano identificare in loro, ma nello stesso tempo devono avere anche una parte assolutamente pazza, come dire, un po' sopra le righe, per attirarli, perché il lettore voglia essere un po' come loro, o comunque prendere questi personaggi per sognare. Ecco, tra le cose che devono succedere, quali sono quelle che devono succedere per forza? Se ce ne sono, ovviamente. Dunque, ma anche qui dipende un po' dai target, come si dice tecnicamente, no? Diciamo che è bello, per esempio, per il target delle elementari che ci siano delle prove di coraggio, in modo che il protagonista dimostri la sua forza o la sua intelligenza nell'affrontare questi problemi, che vengono poi risolti in un modo o nell'altro. Quindi devi diventare un po' l'eroe, no? Del lettore. Quindi bisogna comunque conquistarsi il lettore dal punto di vista eroico, quindi fare dei gesti importanti, diciamo così, o più forti di qualcun altro. E quindi comunque la sfida resta un elemento fondamentale a questo punto. Direi di sì, la sfida resta un elemento fondamentale. Lodovica, ti arrivano tanti iscritti da visionare in generale? Tante persone? Tantissimi. L'Italia è veramente un paese di poeti, come si dice, e di scrittori, e quasi tutti hanno uno scritto nel cassetto. E che qualità trovi? Purtroppo. È quello che dicevamo anche in un'altra puntata, quando parlavamo degli scrittori in erba, diciamo così. Diciamo che lo 0,1% di quello che arriva spontaneamente è pubblicabile, e questo non per mancare di... No, ma lo diciamo per invogliare a fare meglio. Quindi... Spesso quando vado anche a fare incontri nelle scuole con i ragazzi o con gli insegnanti eccetera, mi chiedono, in realtà scrivere è un lavoro difficile e non si vede, cioè uno si immagina questo stereotipo dello scrittore che scrive di getto e quindi viene fuori il capolavoro. Non è proprio così. Io ogni tanto dico, ma non perché per darmi delle arie, intendiamoci, anzi, ogni tanto dico, cito una frase di Flaubert, Gustave Flaubert, che dice: la pagina scritta è come un'espressione matematica, non ci deve essere niente di più e niente di meno, e arrivare a chiudere l'espressione matematica in modo esatto è una faticaccia. Assolutamente. È una faticaccia, perché nessuno ti corregge la tua pagina. Sei lì da solo e ti devi vedere da solo i tuoi errori. Serve il talento indubbiamente, ma la tecnica è sempre fondamentale, certo, se no certo. Il talento se ne va senza c'è la tecnica, e questo vale anche per la scrittura ovviamente. Vabbè, quindi invitiamo a fare meglio e non so, forse a leggere di più, Lodovica? Leggere di più è la regola, l'unica regola per chi scrive, no? Per chi scrive e cercare di capire a chi si vuole scrivere, perché scrivere per ragazzi, per esempio, è un po' come scrivere in una lingua straniera, bisogna conoscere il loro linguaggio e conoscere quello che piace a loro, e quindi per ogni fascia di età poi ci sono delle abitudini o delle cifre stilistiche da rispettare, insomma, da seguire. E quindi anche lì non si può scrivere alla Charles Dickens per un preadolescente, un tweens, insomma, non funzionerà. Ecco, senti, per chi scrive per i ragazzi o per i bambini, sono più donne o sono più uomini, se c'è una differenza in questo senso di quantità? In generale sono più donne, in generale, ma però devo dire che i grandi scrittori per ragazzi italiani in questo momento sono più uomini che donne. C'è un motivo secondo te? No, direi di no. Perché è curioso, nel senso che appunto le donne scrivono più facilmente per... A me vengono in mente autrici, vengono in mente autori del passato però, ma non pensavo anche di oggi, ecco, così. Darei alle scrittrici, diciamo, la palma d'oro come quelle più adatte per un pubblico di bambini. Comunque sono tantissime scrittrici super, anche in Italia, tant'è vero che c'è un premio letterario dedicato alle donne scrittrici che si chiama giusto appunto Premio Pippi. Ecco, tanto per rimanere tanto nel per personaggio. Tanto per non fare torti a nessuno e rimanere in tema. Assolutamente sì. Allora io vi invito, se volete andare a curiosare sul sito di Lodovica Cima, che è www.lodovicacima.it. Lei, come vi dicevo, è responsabile dell'area ragazzi del gruppo San Paolo, e se avete qualche scritto nel cassetto, magari rileggetelo un attimo prima di spedirglielo, e chissà che non possa far parte di quello 0.1%. Io mi auguro di sì. Ovviamente. Comunque io rispondo a tutti quelli che mi scrivono sulla mia casella. Ecco, questo è un bellissimo gesto, grazie magari Valentina. Magari non immediatamente, però, ma cerco di farlo arriva. Sempre. Questo è importante. Grazie Valentina Ludovica Cima, scusami, ciao. Ciao, perdonami, grazie. Chiedo a Cristina di avere pazienza, la sentiremo dopo il GR. Prima volevo farvi sentire un momento di un film che ha a che fare ovviamente con l'argomento di oggi. Era la curiosa storia di Benjamin Button, perché lui nasce vecchio e ritorna bambino. Non si sa mai cosa ti può capitare. Mi chiamo Benjamin Button. Cos'è? In nome di Dio? E sono nato in circostanze singolari. Il corpo non è di un neonato, ma di un uomo oltre gli 80 con un piede già nella fossa. Morirà. Di vecchiaia. Santo cielo, assomiglia tutto al mio ex marito. Non sapevo di essere un bambino. Credevo di essere un vecchio nel crepuscolo della vita. Quanti anni hai? 7, ma sembro molto più vecchio. A 7 anni? Tu sei un bambino diverso. Gli altri non capiranno mai quanto sei diverso da loro. Benjamin, hai un aspetto straordinariamente giovanile. E un pomeriggio incontrai la persona che cambiò per sempre la mia vita. Sei malato? Dicevano che sarei morto presto, ma forse no. Sei strano. E se vi dicessi che io, invece di invecchiare, diventavo più giovane di tutti gli altri? Daisy, sono io, Benjamin. Oh mio Dio, abbiamo sempre detto che eri diverso, ma vedo che lo sei davvero. Non è mai troppo tardi, nel mio caso troppo presto, per essere quello che vuoi essere. Si va in guerra, signori! Non c'è limite di tempo. Comincia quando vuoi. Puoi cambiare o rimanere come sei. Voglio ricordarmi di noi come siamo adesso. Che cosa si prova a ringiovanire? Non saprei dire. Io mi vedo sempre con i miei occhi interiori. La nostra vita è determinata dalle opportunità. Lo Non siamo più bambini piccoli, Benji. Perfino da quelle che non cogliamo. Stavo pensando che nella vita niente dura. E che questo è un gran peccato. Alcune cose durano. Il riposo del guerriero. Le 11:07, ancora buona domenica da Stefano Gallarini, qua su Radio 24. Stiamo parlando di bambini, di infanzia, di degli adulti che insomma a volte non vogliono crescere, eppure insomma si cresce per forza, però un po' del nostro cuore rimane là. Abbiamo parlato di lettura e c'è Daniela che scrive: mio nipote ha sempre letto e addirittura mia figlia, scrive Daniela, quando lo aspettava leggeva comunque. Adesso mio nipote ha 6 anni, gli piace tantissimo leggere e continua a farlo perché, appunto, dicevamo che la lettura è qualcosa che bisogna imparare fin da piccola, imparare ad amare fin da piccoli, e per amarla ci sono dei segreti ovviamente e bisogna partire assolutamente da lì. Oggi non avremo Francesca Dragotto, ma volevo leggervi quello che mi ha scritto e lei mi diceva che indipendentemente dalla lingua che i bambini parleranno, le prime parole che vengono dette sono mamma, papà e poi tata, dada e caca. E anche nel caso di lingue fra loro molto molto diverse, perché l'acquisizione del sistema dei suoni segue gli stessi principi dappertutto. Si parte dal fatto che tutti i bambini in una prima fase usano lo spazio interno alla bocca per testare le loro capacità articolatorie e lì quindi nascono le prime parole. Ecco perché universalmente le prime parole dei bambini sono le stesse, fatte di questi suoni. Cristina Cazzola, buona domenica. Buona domenica a voi. Ciao Cristina, tu dirigi Segni d'Infanzia, siamo a Mantova e parliamo di un festival del teatro per bambini. Il teatro è un'altra forma espressiva d'arte che andrebbe insegnata e bisognerebbe un po' accompagnare per mano i bambini verso il teatro. Voi cosa fate, Cristina? Allora, noi intanto facciamo spettacoli che accompagnano veramente i bambini, nel senso che i primi spettatori che noi abbiamo hanno 18 mesi, quindi li prendiamo proprio in fasce. E poi appunto ci auguriamo, e normalmente avviene, il festival esiste da 6 anni, abbiamo già visto crescere bambini dalla fascia dei 18 mesi in su, se prendono la buona abitudine poi ci seguono. La cosa diciamo fondamentale è sempre creare uno spettacolo che non sia solo per il bambino, perché sappiamo bene che il libro il bambino lo può leggere da solo. La televisione si può anche accendere e lasciare il bambino davanti alla televisione, ma a teatro bisogna, quando è così piccolo, accompagnarlo. Quindi se il genitore si stufa non lo riporterà. Quindi quello che dico io sempre è che uno spettacolo deve essere bello e interessante ai due livelli, cioè funzionare per il piccolo e anche per il grande che lo accompagna. Sfida difficile, Cristina. Esatto, infatti questa è la cosa più difficile. E, perché chiaramente, come si diceva prima, si hanno due attenzioni diverse, no? E due qualità anche di sguardo diverse. Diciamo che gli elementi che sono in comune all'attenzione del piccolissimo e del grande, o del piccolo, perché diciamo partiamo dai 18 mesi, ma poi abbiamo anche le varie fasce d'età di cui avete già parlato, quindi tralascio, è che deve succedere qualcosa. Deve succedere qualcosa che in qualche modo stupisca. Il teatro ha questo limite potenzialità che non può avvalersi di effetti speciali come il racconto, nel quale puoi far succedere di tutto, no? Senza spegnere niente. O anche niente. Nella televisione, certo. Esattamente. O anche, esatto, anche il tema dei costi, però sì. O anche nella televisione, no? Perché poi metti insieme delle immagini e tendenzialmente riesci a fare tanto. Quindi a volte, diciamo, faccio un esempio banale, ma che dà l'idea di quello che può succedere per i piccolissimi. Basta una piccola acrobazia che diventa subito interessante, perché per il piccolo è qualcosa che sta imparando a fare, no? E invece per il grande in qualche modo è mettere in comune quello stupore, quella che prova il genitore per l'avventura, faccio l'esempio della camminata del bambino, e ripercorrere in qualche modo questa cosa che è stata buffa, per cui a volte banalizzo, ma giusto per dare l'idea, quello che è il clown che cammina, casca, inciampa, in verità è il bambino di 18 mesi che cammina, casca, inciampa. Sì. Ora sto banalizzando ovviamente per dare un esempio, però arriva il messaggio e tocca il cuore, e quindi riesce a interessare entrambe le due fasce d'età, no? Quella molto adulta. Esattamente, questo per quanto riguarda i piccolissimi. Poi ovviamente man mano che si cresce, questo stupore cerchiamo di farlo diventare sempre più interessante. Quello che faccio io è per esempio girare un po' in tutta Europa a caccia di spettacoli che siano appunto spiazzanti e interessanti, per cui poi magari mi trovo a programmare cose del tipo uno schermo centrale con un attore che agisce da entrambe le parti, e su questo schermo si proiettano immagini di colori che continuano a cambiare, che sono fatto in diretta, e lo spettatore lo guarda dai due lati, quindi entri addirittura quasi in una giostra. Sì, ecco, Cristina, da questo punto di vista, l'Italia come si comporta rispetto all'Europa come produzione per il teatro per i più piccoli o più giovani in generale? Allora, si comporta, diciamo che fa quello che può, nel senso che cerca di fare del suo meglio, sebbene i mezzi non siano purtroppo così, qua il tema economico e dei mezzi a disposizione è diciamo abbastanza vincolante, perché chiaramente se non hai tanti mezzi alla fine non ti puoi scostare di molto dall'attore unico e scena fissa, perché chiaramente e andrai magari sul racconto, quindi in Italia abbiamo degli ottimi raccontatori che ti fanno vivere avventure, no? Col racconto, e quindi siamo nel punto di contatto con tutti gli altri linguaggi che avete già toccato, e si confermano le cose che avete detto, quindi la presenza dell'attore, l'importanza dell'attore diventa veramente il punto di scrimine, sì, esattamente, certo. Invece in Europa, soprattutto in paesi più all'avanguardia come la Francia piuttosto che la Germania, ma anche la Spagna, che sta arrivando a passi veloci, la scenografia o l'impianto diciamo del luogo in cui tutto questo avviene è molto importante, per cui spesso quando vai a vedere uno spettacolo di teatro ragazzi che viene prodotto in questi paesi, entri proprio in un universo che ti cattura come adulto, proprio anche dal punto di vista delle idee scenografiche. Succedono cose che non ti aspetteresti, e sono delle macchine sceniche veramente molto belle. Forse è anche un tipo di teatro, di cultura del teatro diversa, perché parte da una base. Noi arriviamo da un teatro più scritto e quindi più recitato, e loro arrivano invece anche da un teatro più d'immagine, anche guardato. Per cui insomma, questo poi alla fine si porta dietro il proprio bagaglio. Questo è. Sì. Ecco. Poi dopo rimangono confermati il tema del ritmo, per cui si parlava prima delle diverse fasce d'età nel teatro, sì. Il ritmo cambia proprio esponenzialmente, nel senso che per i piccolini la scena deve durare, un'immagine, un racconto, un movimento, una musica, una luce può durare 3 minuti e mezzo, non di più, perché poi il bambino si stanca, perché il suo ciclo dell'attenzione è quello, sì. E quindi invece per i più grandini pian piano li puoi portare ad una scena che varia, diciamo, con tempi più lenti, e in cui il racconto e la parola cominciano ad essere sempre più centrali. Ultimissima battuta, Cristina, c'è molto interesse, siete molto seguiti, questo sì, ma trovi che ci sia sempre più interesse da parte dei genitori e quindi automaticamente anche dei figli e dei bambini verso il teatro? Allora, io posso dire quello che succede sul nostro festival, sì, certo. Che nel tempo, in questi 6 anni, è sempre cresciuto come risposta di pubblico in maniera esponenziale, e soprattutto quello che vediamo è che chi comincia a venire a teatro, questo tipo di teatro, perché poi chiaramente ci sono tante cose, no? Tanti livelli, si affeziona e ci segue nel tempo, e quindi questo sicuramente posso dire che è un interesse, che c'è un bisogno sicuramente, ecco, risponde ad una necessità, anche perché la cosa molto bella è che il teatro si fa insieme, è proprio lo spazio della relazione, e forse questo un pochino ci manca. perché quello che posso raccontare sono aneddoti, no, che si vedono nelle file fuori dai teatri piuttosto che anche nelle sale, diventa proprio un tempo in cui il côté educativo è dal punto di vista umano, proprio dello stare al mondo, perché si sta insieme in uno spazio piccolo a condividere un momento speciale, e questo, diciamo, è molto bello, perché per esempio non mi è mai successo di vedere scene che magari in parchi dei divertimenti si vedono, con maleducazione, gente in fila, perché è proprio lo stare insieme, più di gente che sceglie di stare insieme perché sa che quella è una condizione importante. Certo, e quindi anche un bel modo di vivere e di imparare proprio a vivere in questo senso. Grazie Cristina, davvero vi invito a guardare il sito, che è signidinfanzia.it, per avere tutte le informazioni. Ci sono anche molte fotografie che dicono anche tanto del vostro lavoro. Grazie Cristina, buona giornata. Grazie, buona domenica. Il riposo del guerriero. E mentre il libro sicuramente più regalato dagli adulti ai bambini, dagli adulti agli adulti, resta Il Piccolo Principe di Saint-Exupéry, sicuramente, immagino che l'abbiate letto tutti, credo, parliamo ancora di un'arte che è l'illusione, l'arte delle, chiamiamole così, magie. Ciao Stefano Di Pumpo, buona domenica. Ciao carissimo Stefano, come stai? Bene, bene. Allora, Stefano è un illusionista anche per ragazzi, insomma, siccome tu hai avuto a che fare e hai a che fare con una fascia d'età, diciamo, la magia può essere così compresa bene dagli 8 anni in su, prima? Non lo so. Ma sì, direi di sì. L'arte magica piace ai bambini anche a partire da 4 anni, devo dire la verità. E i bambini amano la magia perché gli piace la dimensione magica. Poi è chiaro che la comprensione dell'effetto dello stupore vero e proprio avviene dopo quell'età che dici tu, dopo i 7-8 anni, chiaramente. Quando ci si può cominciare ad avvicinare come illusionisti, invece, diciamo così? Guarda, allora, i bambini da che mondo è mondo giocano a fare i maghi, perché, come ti dicevo, gli piace la dimensione magica fin dai 5-6 anni, perché è un classico regalo anche di Natale, visto che siamo in periodo. In periodo, sì. La famosa scatola del mago, dove ci sono dei piccoli giochi, dei piccoli esperimenti da fare. E quindi è bellissimo che i bambini si divertano a giocare a fare il mago, in quel senso. Invece poter approcciare veramente la disciplina dell'arte magica, quindi impararla, è una cosa che devi fare dopo gli 11-12 anni, perché è lì che cominci a capire delle cose un po' più elevate, soprattutto nel rapporto che tu devi instaurare col tuo spettatore, e per dargli questa fantastica cosa esclusiva del prestigiatore, di dare il senso dello stupore. E quindi ci sono degli elementi psicologici che si capiscono e si cominciano a riuscire a praticare, direi, dagli 11-12 anni in su. Ecco Stefano, com'è è diversa la magia, quella proposta agli adulti e quella proposta invece per i ragazzi? Quali sono i punti che ci devono essere per essere interessante a una fascia più giovane? Guarda, allora, io mi occupo da tanti anni di fare magia per bambini, fra l'altro lo facciamo in questo periodo in una maniera un po', come si dice, educativa, per cui noi facciamo degli spettacoli dove usiamo la magia, ma per insegnare delle cose. I bambini hanno una percezione tutta diversa dagli adulti dello spettacolo di magia. Innanzitutto danno per scontato che sei un mago. Sì, e per cui è normale che tu faccia sparire le cose, no? Esatto, giusto, esatto. Quindi dici, beh, che bravura c'è, se dici che sei un mago ci devi riuscire per forza. È normale. Certo. E per cui si divertono, fra l'altro, molto di più, per assurdo, e questo lo sappiamo noi del mestiere, diciamo, e ci giochiamo con questo, quando per esempio le magie succedono da sole. Infatti c'è una sindrome che gli americani hanno catalogato, perché hanno un nome per ogni cosa, la sindrome del magician in trouble, cioè vuol dire quando il mago non riesce a fare una cosa e le cose succedono suo malgrado, certo. I bambini si divertono molto di più, perché allora dicono, ma quella è veramente una magia, se succede nonostante il fatto che lui sia un mago. Capisci? Certo, quindi quella è un po' la chiave fondamentalmente, esatto. Anche perché il mago in realtà non riesce a fare tutto quello che i bambini vorrebbero, esatto. Per cui è anche molto difficile. Fra l'altro, negli ultimi tempi noi abbiamo una grande sfida da vincere, cioè la tecnologia del cinema, della televisione fa dei prodigi incredibili, basta vedere che tutti i miei sogni, tutti i miei fumetti della Marvel sono diventati dei film, mentre prima era una cosa impossibile, e adesso tutto è visibile al cinema, tutto è grande magia, quindi vedere la magia dal vivo potrebbe creare delle aspettative che noi purtroppo non siamo in grado di creare veramente. Ecco Stefano, per chiudere, secondo te, dovendo regalare una scala scatola di la scatola del mago, ecco, sì, ai propri sì. figli, che età dovrebbero avere per poterla ricevere? Ma secondo me fin dai 4-5 anni ci si può giocare, è anche un bellissimo momento di unione, perché comunque allora questa scatole hanno sempre delle istruzioni magari un po' difficili da studiare, quindi c'è bisogno dell'apporto dell'adulto per forza, quindi, certo. Secondo me è un bel momento, si apre la scatola, si tirano fuori queste cosettine di plastica, queste carte e si legge insieme il libretto per cercare di capire sia gli adulti che i bambini come funzionano, e poi è una cosa molto conviviale perché poi si gioca, si mette lì la zia, la nonna e ci si fa lo spettacolo da soli, e io credo che sia anche una cosa molto creativa e ludica allo stesso tempo. Bene, fatelo, perché poi se impari a quell'età poi non la dimentichi più, vorrai farlo, certo, poi per tutta certo. la vita, insomma è successo un po' a tutti noi, dicevi? Scusa. Certo, e per essere in tema con quello che avete sì. detto fino adesso, ribadisco che poi il passo successivo, ma si può fare anche verso gli 8, 9, 10 anni, è quello di andare in una qualsiasi libreria e c'è sempre sullo scaffale, magari un po' nascosto, ma si trova un bel libro che insegna a livello divulgativo a fare dei giochi di prestigio con oggetti che trovi in casa, con delle carte normali, cioè con cose che si possono ritrovare. È chiaro che la magia vera poi si imparerà in quel modo, cioè leggendo i libri, questi libri segretissimi. Ecco, infatti, preferite i libri ai DVD, almeno io la penso così in generale, i DVD che spiegano di cui stiamo parlando, con certo. dei film. Ma questa è una cosa troppo tecnica. Invece è vero, però... libreria, c'è un bel libro di magia, noi siamo, mi sa anche te, nati col famoso manuale di Silva. Assolutamente sì, certo. Per cui... un bel volumetto rosso dove c'erano scritti dei segreti incredibili. E da lì si parte. Grazie Stefano Di Pumpo, vi ricordo Ciao. Il sito se volete sapere le cose che fa e che fa il suo team, è fantasticteam.it, ma scritto Funtastic Team. Funtastic, esatto, con la U. Bravo. Grazie Stefano, ciao, buona Grazie domenica te, ancora. Un caro saluto, ciao. Allora, io sono pronto anche a festeggiare il Natale con voi regalandovi un cofanetto regalo degustazioni, quindi un SMS con scritto Smart Box al 349-238-6666 e parliamo di videogiochi con un videogioco dedicato proprio ai più giovani. Video game. Video game. Prodotto da Peter Jackson e diretto da Steven Spielberg, il film animato a 3D che ha per protagonista Tenten è arrivato anche sugli schermi per giocare. Cosa vuoi farmi vedere? Piano, Milù. Era questo che volevi mostrarmi. Calmati. Bravo, cagnolino. Hai ragione. È davvero bellissima. Sì, infatti. Una vera cornetta. Intendete goletta? E io che ho detto? Solo 90 franchi. Milù, come mai ti interessa questo modellino? Eh? Non puoi mangiarlo. Vi darò 50 franchi. 70 franchi. E facciamo entrambi un ottimo affare. Quanto per il modellino? Arriva tardi, signore. Ve lo ricompero. Desolato, signore, ma non desidero rivenderlo. Un momento. Sono un collezionista. Ve lo pago 10 volte il suo prezzo. Mi dispiace. Ascoltate, giovanotto. Vi avverto. Accuccia! Basta così, Milù! Sono spiacente. Arrivederci. Tenten è un giovane reporter col vizio dell'avventura e nel tempo libero ovviamente passeggia per i mercatini, si ferma per i ritratti o acquista il modellino di una nave che nasconde un immancabile segreto. La storia del videogioco riprende quella del film, adattando le situazioni e gli scenari visti al cinema in modo da renderli giocabili. La storia, che viene raccontata con dei brevi filmati, parte dall'incontro fra il giovane reporter e il capitano Haddon, entrambi coinvolti nella ricerca di un tesoro nascosto molti anni prima da un antenato di quest'ultimo. L'avventura porterà i due a diventare grandi amici e ad affrontare insieme insidie di ogni tipo, visto che il tesoro fa gola non solo a loro, ma anche a un gruppo di criminali senza scrupoli. Dove andiamo? Che ci faccio qui? E tu che diavolo sei? Calmatevi! Per 100.000 milioni di sabordi! Tenetevi! Fondamentalmente il gioco è del tipo a piattaforme e in alcune versioni può essere giocato anche con la visione tridimensionale. Oltre a questo dovrete affrontare anche altre sfide, come pilotare un biplano, guidare un sidecar, tirare pugni e difendervi con le spade. Tintin non sarà il solo protagonista del gioco, perché avrete la possibilità di affrontare l'avventura anche in modalità cooperativa, facendovi aiutare dal capitano Haddock. Inoltre, per proseguire nella storia, dovrete fare affidamento anche sulle vostre capacità logiche e sul fiuto del vostro fedelissimo cane, Milù. Milù, conto su di te. Doppiato egregiamente, il gioco piacerà molto ai più giovani, ma molte scene sono divertenti da affrontare anche con l'aiuto di mamma e papà. A seconda delle versioni, poi, ci sono giochi extra da affrontare in modi differenti. Nella versione Xbox, per esempio, i minigiochi con biplano, side e carre spade possono essere affrontati con il solo movimento utilizzando la periferica Kinect. Consigliato dai 12 anni in su, Le avventure di Tintin e il segreto dell'unicorno è disponibile per Xbox, PlayStation 3, PC, Wii, 3DS, iPhone e iPad. E si è rivelato una piacevole sorpresa. La storia non è confinata nel passato, è nel nostro sangue. Aceto balsamico di Modena del Duca, per un Natale al vertice del sapore. Vi presenta Il Gastronauta. Ecco, mezza cotoletta, la milanese, le patatine, quello è il tipico menù per i bambini di tanti ristoranti. Ciao Davide Paolini, buona giornata, buona domenica. Mancano le penne e pomodoro, però. È vero anche questo, certo. Allora, esistono questi menù per bambini, li trovi intelligenti, come sono fatti? Ma guarda, ormai ci sono molti ristoranti che offrono i menù per i bambini, però non vanno al di là dell'hamburger, della cotoletta, delle patatine e appunto della pasta al pomodoro, quindi i nostri bambini probabilmente sono un po' limitati, magari si ribellano di fronte a questo e non lo scelgono mai il menù per bambini. Anche perché non si sentono, esatto, anche perché quello che tu quando sei bambino vuoi assolutamente è fare le cose che fanno i grandi. Se ti senti certo piccolo anche in quel momento, proprio al ristorante, che è una cosa da grandi, insomma un po' la rifiuti anche psicologicamente, credo. Poi ci sono dei ristoranti che danno anche dei giochi per i bambini, sì, mentre mangi. È evidente che alla fine finiscono per non mangiare e sicuramente per giocare. Le matite per colorare. Le matite per colorare, tutte queste cose. Ma sai, ormai io credo però i bambini ormai mangiano di tutto. L'importante è dargli delle cose che non siano, che siano magari poco condite, che non ci siano grandi condimenti o d'altro. Però cioè, io vedo nei ristoranti ogni tanto butto l'occhio e vedo che i bambini sicuramente scelgono addirittura dal menù dei grandi, mangiano e molte volte mangiano molto meglio dei grandi, cioè si comportano a tavola molto meglio dei grandi. Io non credo che ci sia così, bisogna limitare ai bambini dei menù molto particolari, come dicevo basta usare delle... Ma io credo che sia una questione di prezzo, no? Nel senso che tu per un primo spendi una certa cifra, però ti dispiace perché spesso i bambini lasciano a metà quello che mangiano perché per loro la dose è troppa, ecco, rispetto a quella per gli adulti. Credo sì, che sia, sai, quello molti, poi... Purtroppo molti ristoranti si rifiutano ad esempio di fare le mezze porzioni. È quello che infatti ti stavo per chiedere proprio. E la seconda cosa secondo me è molto indecente, lo ripeto, molto ma molto indecente, è che fanno pagare pane coperto a dei bambini, ma magari anche a bambini di un anno che stanno sul, diciamo, sul seggiolone, sì, molto particolare, oppure che se lo portano, ormai se lo portano i genitori, perché ormai ci sono... Lo attacchi al tavolo direttamente, sì. Ci sono delle strutture tecnologiche da far paura ormai, sì, per bambini, e devo dire che fanno pagare pane coperto, con questo lo ritengo molto indecente. Già che io ritengo indecente il pane coperto, tant'è vero che anni fa feci una campagna politica gastronomica dove c'era una mia foto, quella ritoccata alla Obama, dove dicevo pane coperto non lo pago di certo, perché ecco, io questo la ritengo un fatto nefando, proprio non capisco questo balzello. L'altra sera l'ho pagato perfino in pizzeria. Cioè in pizzeria con il pane coperto cosa c'entra? Il pane e la pizza, certo. Quindi perché devo pagare pane coperto? 2,80 euro, ce lo ripeto, 2,80 euro in una pizzeria di provincia, in un paesino sperduto, ho pagato 2,80 euro cada uno di pane coperto. Quindi se ci va un bambino e magari non mangia, magari spizzica qualcosa, tu lo fai pagare 2 euro coperto. Perché quindi quando uno va al ristorante dovrebbe mangiare senza posate a questo punto, a parte senza il pane, ma non avendo neanche il coperto dovrebbe mangiare come in piedi. Com'è che dovrebbe funzionare? Senza cucchiaio? Non ho capito. Non dovrebbe funzionare perché già tu mi fai già pagare il piatto. Ma certo, certo, ovvio. Ma no, dal pane coperto... Dicono i ristoratori e la tovaglia, tutte queste cose. Tovaglia, sì. Molte volte ci sono tovagliette di carta e lo paghi lo stesso. Lo paghi lo stesso, quindi non capisco. Allora, tantomeno a un bambino tu non puoi fargli pagare il coperto pari a uno grande. sì, magari ti sporca di più, questo è vero. Il bambino alla fine ti sporca. Però molti genitori sono attrezzati, si portano come no, la bavaglina, certo, tante, tante, certo, altre assolutamente cose. Sì. Secondo me, ecco, questa di comunque del menù dei bambini, secondo me è un'operazione intelligente, perché sicuramente molte volte ci sono dei menù che non permettono un piatto per bambini, nel senso che magari il bambino rifiuta un po' tutto. Sicuramente la cotoletta, le penne al pomodoro e diciamo magari anche le patatine, ecco, questi bambini siamo sicuri che mangiano tutto, lo mangiano tutti. Oggi ci sono dei bambini però che sono anche molto, come posso dire, molto ricercati nel mangiare e quindi vogliono mangiare anche cose molto particolari. Ecco, si dovrebbe forse inserire proprio la mezza porzione, cioè al posto cioè lo stesso menù però in una porzionato in modo diverso. Questo potrebbe essere, sì, una, ecco, scelta, anche se non la fa nessuno. Esattamente, i bambini potrebbero servire, cioè ci sono molti piatti che sono impossibili da dare sicuramente la mezza porzione. Vabbè, certo. Al di là dei primi o d'altro, però quello che è possibile in un ristorante, offrire la mezza porzione piuttosto che il menù per i bambini. Mi dicono che il menù per i bambini, chi lo ha messo, ha avuto molto successo, diciamo, d'accesso, nel senso che i genitori quando vedono il menù del bambino entrano nel locale, sì. Però poi i bambini non lo mangiano, magari non lo scelgono, certo. Ricordo un ristorante in provincia di Pesaro molto divertente, che aveva un menù per bambini tutto basato sui cartoni animati, quindi c'erano tutti i nomi dei piatti, invece di mettere patatine c'erano i nomi di personaggi famosi dei cartoni animati, sì. Quindi anche questa può essere un escamotage, così per far divertire il bambino, magari farglielo richiedere, ma oggi con tutti i giochi tecnologici che ci sono è un po' dura, secondo me. Assolutamente. I cartoni animati. Rischiamo che al posto di così prendere quello che hanno nel piatto, si prendono la console portatile in mano e si concentrano su quella senza mangiare, sì, niente. Ecco, magari aggiungere qualcosa delle bibite, questo sì, solo che ad esempio in molti ristoranti si rifiutano di tenere l'aranciata piuttosto che la Coca-Cola, che piuttosto altre bibite, perché in fondo un bambino, cioè, sicuramente non può bere vino, ecco, magari questo potrebbe essere un fatto anche importante, di dargli quello che vuole per farlo stare tranquillo, e sicuramente non fargli bere vino, insomma, perché altrimenti, insomma, poi mi sembra che non si possano dare gli alcolici, no, a una certa età. Direi di no, assolutamente. E anche le bibite gassate e dolci non andrebbero bene, per cui forse l'acqua resta la scelta migliore. Meno dietetico, insomma. Vabbè, insomma, senza però tutto questo, il bambino, tu dici, ma se bambino siamo fuori, concediamoci almeno quando siamo fuori, concediamoci un po' la trasgressione, hai ragione. Concediamoci un'aranciata della Sicilia, to. Va bene, sarebbe già qualcosa. Sarebbe bello anche trovarla, perché non è così semplice. Grazie Davide, buona domenica. Ciao, grazie. Buona domenica. Tra pochissimo giochiamo con il mistero in 24 minuti. Per voi fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it. Il numero per la prenotazione e giocare 800 24 00 24. Il riposo del guerriero. È il momento di risolvere un mistero. 800 24 00 24. Un mistero in 24 minuti. Per voi fino a 1000 euro da spendere su libreriarizzoli.it, e quindi libri, cartacei ed elettronici. Speriamo di farvi portare a casa un bel bottino. Questo è il primo indizio. No more hunger and thirst, but first be a person who needs peace. Potevo tagliare, questa canzone era impossibile, insomma, la voce di Barbara Streisand l'avete riconosciuta sicuramente, è l'attrice anche interprete di Funny Girl, che è un musical, e questa è la canzone, insomma, più importante, più famosa, tratta da quel musical, si intitola People, appunto, gente. Barbara Streisand è l'interprete e Alberto da Padova è il primo concorrente. Ciao Alberto, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora Alberto, siamo a 1000 euro, parliamo di indizi, il primo appunto è People, Barbara Streisand, che cosa vuoi fare? Ma io ho sentito questa canzone, mi è venuta in mente la premiazione della CNN di questo anno. Eroi del 2011. Grazie Alberto, sai che fino al 24esimo minuto non si scoprirà la soluzione, per te potrebbero essere 1.000 euro. Buona giornata. Ciao Alberto, ciao. Auguri, grazie. Gianni da Prato. Sì, buongiorno. Ciao Gianni, eccoci qui. Allora, che cosa vuoi fare? Non prendo indirizzi. Praticamente la notizia è la vicenda dell'uccisione dei senegalesi con successiva marcia antirazzista a Firenze. Marcia fra l'altro molto seguita. Grazie Gianni, buona buongiorno. Giornata. Ciao, grazie. Antonella da Torino, buongiorno. Sì, buongiorno. Ciao Antonella. Ho pensato al personaggio dell'anno proclamato dal Time. Che è? Sì, sì, ti che sto ascoltando. Sì, sì, il contestatore, in inglese non lo so dire. Grazie Antonella, buona giornata. Grazie. Ciao, grazie. Gabriella da Torino, sempre. Sì, ciao. Gabriella, hai visto tutti oggi di risposta senza altri indizi, niente, tutti sicuri. Sì, ma anch'io, però l'hanno già detto. Ho pensato anch'io al personaggio dell'anno, del Time, The Protester, però l'hanno appena detto. E quindi cosa vogliamo fare, Gabriella? Niente, perché non ho in mente nient'altro. Vuoi un secondo purtroppo indizio? Se vuoi mandare l'indizio, ma non lo so. Non so, sei tu che devi scegliere. Io rimango quello. Anche perché se fosse giusta la risposta, comunque non porteresti a casa niente. Per cui, no, non so. Ma se vuoi mandare, manda, ma non. Magari ti viene in mente qualcos'altro, non lo sai. Può darsi. Allora, facciamo così, resta con noi, aggiornamenti sul traffico, no, non ancora, sì, eccoli qua, arrivano e dopo sentiamo il secondo indizio e poi Gabriella potrà darmi la tua risposta. Un mistero in 24 minuti. C'è Gabriella da Torino che sta giocando, eravamo a 1000 euro ma scendiamo a 500 euro e questo è il secondo indizio. Che ho sempre visto senza te. La mascella scolpita di un rude cowboy che fuma. Un marinaio bruciato dal sale e dalla sfortuna. Gabriella, eccoci qua, lo avrai riconosciuto, immagino, la voce di Lucio Battisti. Sì, però sentivo molto molto lontano. La canzone. Comunque ho capito che era lui. E la canzone era l'interprete di un film. L'interprete di un film, People. Non mi viene in mente niente. Gabriella, ti devo farti gli auguri. Anche a te, grazie. Ciao, grazie. Grazie, buon anno. Buona domenica anche a te, Gabriella, davvero. Marina da Correggio, buongiorno. Ciao. Ciao Marina, ma chiedete di sti indizi che vi aiutano, altro che Marina, cosa vuoi fare? Volevo provare a dare la soluzione. Vabbè, allora niente, indizio, vai Marina. Provo a dire il personaggio Augusto Minzolini. Come mai? Così. Sono abbastanza al centro di discussioni. Questo è anche vero. Grazie Marina, ciao, buona giornata. Ciao, grazie. Giovanni da Brescia. Ciao, buongiorno. Ciao Giovanni, buongiorno a te. Cosa vogliamo fare? Ma ascolta anche il terzo indizio. Ecco, hai seguito il mio consiglio allora. Sì, bravo. Sì, ecco. A voi mettere una cosa, ma sono andato fuori adesso col secondo indizio. E allora sentiamo il terzo, scendiamo a 300 euro. E se non avrai da dire niente di particolare, non ti devi preoccupare, io saprò capire, a me basta di sapere che mi pensi anche un minuto, perché io so accontentarmi anche di un semplice saluto, ci vuole poco per sentirsi più vicini. Mancano 5 minuti alla soluzione del mistero. Eccoci qui. Allora, Giovanni. Da Scream Lady di marzo. Eccoci qua. Uscito. Grazie. Va bene, ciao. Grazie ciao. Anche a te, sicuramente. Grazie da Milano, buongiorno. Buongiorno. Ciao, grazie, buongiorno. Ciao. Allora, cosa vogliamo fare? Siamo a 300 euro in questo momento e abbiamo già scoperto tre indizi. Io direi le dimissioni di Mentana. che poi sono rientrato. Che poi sono rientrato. Però se ne è parlato tutta una giornata. Se ne è parlato la gente. Va bene. Grazie. Grazie con te il bisticcio non può che esserci. Buona giornata, bisticcio di parole, questo volevo dire. Certo. Maria Teresa da Roma, buongiorno. Eccomi. Maria Teresa, cosa facciamo qui? Abbiamo 300 euro, tre indizi. Mi bastano i 300 euro. Allora aspetta che ascoltiamo gli indizi. Tutti? No, quelli di tre scoperti fino a questo momento. People. People who need people. Scrivimi quando il vento avrà spogliato gli alberi. People, Barbara Streisand, interprete di un film, Lucio Battisti, e Scrivimi, cantato dalla Pausini in questo caso. Allora, Maria Teresa, per me è rientro delle truppe dall'Iraq. Grazie Maria Teresa, sai che non posso sbilanciarmi. Buona giornata, ciao. Giovanni dall'Aquila. Buongiorno, ciao, eccomi. Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Cosa vogliamo fare qui? Io già avevo un'idea dal primo indizio. Io direi il battibecco tra Bossi e Berlusconi. Uno piange, l'altro ride, è quello che vuoi dire? Sì, più o meno. Più o meno così. Mi ero fatto questa idea. Grazie Giovanni, buona giornata. Grazie. Ciao, ciao. Luisa da Milano, buongiorno. Salve. Luisa. Dunque, io ero partita con la manifestazione antirazzista ma ne abbiamo parlato anche di quello. Dopodiché adesso, così racimolando qualche cosa, ho pensato comunque al presidente Monti, che replica a Berlusconi. Sulle sue paure, non so, mi pare qualcosa del genere. Sì, una replica di Monti e Berlusconi. Certo, che detto che. Intanto, purtroppo. Niente, potevi anche ascoltare un altro indizio, però. Farò niente, Luisa, grazie. Grazie a te, grazie. Buona giornata. Ciao, auguri. Ciao. Ornella, nessuna difficoltà appunto per Monti. Ornella, eccomi. Eccoci ciao. Qui. Che cosa, vuoi fare? Dunque, ma io mi butto così perché. Anche tu. Dunque, intanto avevo pensato a Time, al popolo degli indignati, da subito, dal primo giorno in cui avete dato l'indicazione. Però potrebbe anche essere giusta la risposta, però l'hanno già data, per cui. Variamo su questa notizia qui, il fatto che Facebook mette insieme le idee, le persone e ha fatto spargere la voce per quanto riguarda la protesta in tutto il mondo. Ah, e quindi tu dici Facebook fondamentalmente? Facebook, Twitter, o Twitter, la rete diciamo web, così, social network. È una risposta interessante, Ornella, che molto ben si adatta al primo indizio, molto meno si adatta al secondo e al terzo, magari sì, ma al secondo. Il secondo me lo sono perso. Mi dispiace, cioè, nel senso, però è interessante la tua risposta. Grazie, Ornella. Ciao, buona ciao. A tutti. Anche ciao. A te, grazie. Gianni da Bologna. Ciao Stefano. Ciao Gianni. Allora, facciamo gli auguri a tutti. Ah, che bello, va bene. È presi. Tutto bravissimo come tutti gli altri dello staff di Radio 24. Grazie. Ricambiamo ovviamente gli auguri. E anche il fatto che anche tu sia bravissimo, immagino, sicuramente lo sarai. Gianni, che cosa vogliamo fare? Ma io sinceramente avevo un'idea. Per me era la Norvegia che era rimasta senza burro sotto le feste. Fare loro biscottoni. E come facciamo senza quei biscotti norvegesi, che ne mangi uno e hai pranzato per due giorni, in poche parole? Hai preso è calorico che ti mette KO. Però sono buonissimi, almeno. Io a me piacciono molto. Grazie Gianni, ma non è la risposta giusta. Nuovo, grazie. Grazie. Abbiamo una vincitrice, eccola lì. Come sono felice di poterti dare 500 euro, Marina, sono tanti. Sì, sono tanti. Da spendere su libreriarizzoli.it, per cui libri sicuramente da leggere per te, per chi è vicino a te, perché è Natale, infatti, useremo. Infatti. Marina, sono veramente felice, la risposta giusta era Augusto Minzolini, ma perché ti è venuto in mente lui? Solo per le cronache o anche per gli indizi? Ma perché guardate un pochino sul web, sì, visto che ha fatto esse bombo. Brava, è proprio così. Lui quando si è insediato aveva detto che il TG1 si sarebbe occupato della vita reale della gente, per questo People, l'interprete di un film, perché ha interpretato anche una parte in Ecce Bombo di Moretti, lo voleva fare l'attore, è iniziato così. E poi scrivimi perché è giornalista e eccetera. Grazie, ciao Marina, complimenti. Davvero, con i tuoi 500 euro, grazie a Giorgio De Luca redazione, l'assistenza di Sfana Tagliaferri, Paolo Corleoni in regia. Ancora auguri, ci sentiamo domenica prossima. Ma è Natale, è vero, sempre alle 10 con Riposo del Guerriero.